Parte 3. Un viaggio faticante, fino in fondo alla Puglia. Nelle prime ore del pomeriggio il treno, estenuato, neppure aveva più la forza di soffiare, rallentava, come sopraffatto dalla gran calura. Le case sonnecchiavano sulla desolata pianura, il caldo sfriggeva di innumerevoli cicale. Anna e Valentina, i volti lucidi di sudore, si erano affacciate al finestrino per cercare un po' di refrigerio, ma il vento era caldo. Un fiato. Sotto la pensilina della stazione, le campanule afflosciate sembravano farfalle morte. I genitori di Anna erano venuti a prenderla con la carrozza. Papà subito la soffocò di parole. Mamma sudava nello sfarzoso vestito estivo. Le due ragazze si separarono abbracciandosi e Valentina si avviò con la madre verso casa. Già appena arrivata si sentiva addosso la leggera malinconia dei desideri soddisfatti, delusa che il momento dell'incontro con la madre fosse trascorso, vissuto. Le vacanze. Tutto qui. Non era stata una grande emozione come credeva. Era il suo primo anno di università e sempre scriveva da Roma: "Immagina, mamma, quando tornerò". E adesso, ecco. Era tornata. Anna, entrando in casa, s'arrestò stupefatta. "Oh!" esclamò rammaricandosi. C'era nel tinello una mobilia 900. Le pareti erano verniciate di verde pallido, non si capiva da dove venisse la diffusa illuminazione. "Bello, eh?" fece il padre orgogliosamente. "Non mi avevate scritto niente?" No, abbiamo voluto farti la sorpresa. Tutto viene da Bari. Il diffusore l'ho portato io da Milano. In fretta la madre aggiunse: metteremo a nuovo la casa così, a meno che, sì, insomma, ti diremo tutto a tavola. Ma il babbo attendeva. Non hai ancora detto se ti piace. Ti sembra meschino, forse? Oh no, no, davvero, non mi aspettavo. Ecco, pare d'essere in città. Poi, vedendo che i genitori aspettavano altro da lei, aggiunse: "È bellissimo, bellissimo. Deve essere costato molto, molto. Ma si vede, no, che è una cosa di lusso. Non è denaro buttato via". Giungevano i servi a salutarla. Alcuni l'avevano vista nascere. Rimanevano sulla soglia senza osare di mettere piede nella nuova sala da pranzo. Sembrava questa una stanza di un'altra casa. Pur essendo così vicina al vecchio atrio, dove stavano ancora appesi i fucili del nonno. Infine Anna salì e i servi si sparsero nell'aia dove i fiori crescevano in vasi di cemento, fiori che non si potevano toccare da quando se ne occupava un giardiniere. La camera di Anna era al secondo piano, con la finestra soffocata di arrampicanti. Ella temette che il rinnovamento le avesse tolta anche quella, entrando e ritrovandola uguale. Respirò forte, sollevata dal timore. Guardò attorno golosamente e poi, colma di pace, si volse alla mamma che l'aveva seguita e l'abbracciò dicendo: "Sono felice di essere tornata". Rimase a occhi chiusi sul petto della madre, sentendo il respiro di lei, l'odore della carne profumata e molle, un odore diverso dall'odore che aveva tanti anni fa. Si diceva: "Son qui, a casa, tutto ciò che è intorno a me mi conosce, mi appartiene". Taceva, commossa, ma ad un tratto scostandosi chiese come impaurita: "E la nonna?" "Giusto. È bene che tu vada a salutarla subito. Va peggio con lei, sempre peggio. Non si domina più, non scende più a mangiare nel tinello adesso, insomma, nella sala da pranzo. In cucina voleva mangiare, figurati, in cucina. Glielo abbiamo impedito. Allora mangia qualcosa in camera, ma nasconde gli avanzi. Nel cassetto, che odorano di muffito. E ruba, una mania, ruba e nasconde. Ha rubato in cucina tutto lo zucchero che ha potuto, lo ha tolto dalla zuccheriera. Pensa, giorni or sono Alfonso ha ricevuto quelli di Milano, della società. Già, tu non sai, ti diremo dopo, insomma, forestieri, gente di riguardo. E la nonna scende con lo scialle in capo. Noi non alziamo la testa, fingiamo di non averla vista sperando che gli altri non la notino, che la scambino per una contadina, quando ecco lei si presenta e chiama: "Alfonso, vieni da tua madre". Quelli allora s'alzano, salutano e lei neppure risponde, chiede al figlio: "Chi ti ha permesso di toccare quel vino vecchio?". E allora tuo padre, poveraccio, con i migliori modi a convincerla che tornasse in camera sua. Gesù, che scena! Di giorno esce e gira per i campi, dà ordini ai coloni, ruba la frutta e di sera si mette alla finestra e canta: La padrona sono ancora io. La madre sospirò, poi riprese: Va, lavati e subito scendi per la cena. Anna salì, bussò alla porta della vecchia, nessuno rispose. Allora spinse l'uscio adagio, chiamò: Nonna Antonia. Lì dentro c'era odore di vecchio, di conservato, era buio. Nel vano della finestra si scorgeva un cielo limpidissimo, quasi mattinale, e le prime stelle. Appoggiata al davanzale, la vecchia mangiava. Entra, Anna, disse. Entra. E dopo averla abbracciata, son contenta che tu sia tornata. Avevo bisogno di parlarti, sai, si va in rovina qui. Siediti. E le accennò uno sgabello basso accanto a lei. Così, al buio. Ci si vede ancora. È un peccato sprecare la luce. Hai visto dove sono finita a mangiare? Povera me, è come se già fossi sottoterra. Ogni giorno tua madre entra e mi domanda: State bene? Vede che resisto, che sono di buona fibra. Benissimo, rispondo, anche se ho l'acidità dello stomaco e intanto con le dita faccio le corna sotto le vesti. Benissimo, sempre benissimo. Resisto. La padrona sono ancora io, le terre sono mie. E loro continuano a gettare denaro a manate, come la semina. Hai visto il tinello? Ah, mai ho voluto metterci piedi io. Non piace neanche a me il tinello, ma che volete farci? Non bisogna che tra voi e papà. Oh, non è lui, non è lui, è tua madre. La disgrazia è caduta sulla nostra casa dal giorno che Alfonso ha disubbidito a me e l'ha sposata. Ma io vivo ancora e vedo tutto, sorveglio più che posso, accumulo roba nei cassetti per te, Anna mia. Ma mi hanno rivolto contro anche i servi e tutti mi respingono quassù, mi rinchiudono quassù quando possono. Oh, chi l'avrebbe detto, Anna? La vecchia cominciò a piagnucolare. La nipote le carezzava le mani rugose, le spalle magre avvolte nello scialle, ma distrattamente. Guardava il cielo, la chiarità notturna le sbiancava il viso. Tutto era lunare, ma la luna non si vedeva. Stava alta sulla casa, i campi si stendevano all'infinito in quella pace luminosa. La vecchia fiottava e Anna dovette rinunciare a udire il timido fritinio dei grilli. Poi la nonna repentinamente s'alzò, si diresse al cassettone sicura nella penombra e lo aprì traendo la chiave di sotto la gonna. Tutto chiuso devo tenere, vedi? Se no, quando io sono fuori, vengono e frugano nella roba mia. Cercava con mani sicure e infine tese alla nipote alcuni dolcetti di mandorla ammuffiti. Tieni, le disse, mangiali, ma non farti vedere. Li ho nascosti una sera che tuo padre aveva ospiti e faceva l'orgia nel tinello. Ma saranno forse relazioni d'affari? Che affari, affari? I suoi affari debbono essere la terra. Da dove gli viene il denaro che sperpera? Dalla terra. E lui invece non si interessa di ciò che accade nei campi. Il tinca ruba le olive. E nessuno se ne preoccupa. In cucina l'olio corre a rivoli. Tua madre vuole comperare l'automobile. L'automobile, capisci? E neppure sa dove stanno le case dei coloni nella tenuta. Hanno ordinato la radio. Raccontava tutte queste cose in fretta, come se da un pezzo le stessero sul cuore e provasse sollievo a liberarsene. Adesso io devo scendere, nonna. Parleremo domani. Venite giù anche voi? No. Disse, io adesso vado a letto. T'accompagno alla porta perché devo chiudermi a chiave. Se di notte tu avessi bisogno di me, bussa tre, no, quattro volte. Altrimenti io non apro a nessuno. Anzi, appendo una sedia alla maniglia perché così, se qualcuno la tocca, del resto non dormo mai. Molte volte ho inteso che tentavano di entrare. Anna, senza risponderle, le carezzò una spalla e uscì, lasciandola che borbottava tra sé mentre chiudeva a chiave. Papà e mamma erano già seduti a tavola e Anna disse: Scusatemi, la nonna. Sì, hai fatto bene ad andare subito. La vecchia serva giungeva con la zuppiera, si muoveva sicura tra i nuovi mobili, ma senza trattarli con domestichezza. Anna sedeva impettita, come quando si mangia fuori di casa propria. Si sentiva confusa. Era stata colta alla sprovvista. Aveva immaginato questa prima cena sotto la luce del vecchio lume a gas, adattato per l'elettricità. Prima c'erano sulle pareti fotografie di lei bambina, del nonno, di sua madre con vestiti passati di moda. Sul davanzale, nei vasi di terra, crescevano rose sorrette dalle canne, gerani bianchi e scialbi, tutto scomparso. Adesso le pareti erano nude, la luce fredda. Anche papà e mamma tra quei mobili non parevano più gli stessi. Mancava quell'intimità familiare che lei sempre rimpiangeva in collegio. Era come se qualcosa di nuovo e diverso stesse per avere principio. Papà e mamma parlavano della nonna che agiva da pazza. Certo, quando la vecchiaia ci rende simili alle bestie, è meglio 100 volte morire. Non vuol vestirsi che con abiti campagnoli, va in giro così, sembra che lo faccia apposta per metterci in imbarazzo. Capisco, disse Anna, ma perché volete costringerla? È vecchia. I vecchi non possono uscire dalle loro età, non si mutano, restano chiusi in quello che è stato il loro tempo migliore. E non dobbiamo vergognarci di lei. Non te ne vergognavi quando eri bambino. Già, tu parli in teoria, ma quando sei qui con gente e lei t'arriva e... Beh, non è forse tua madre? Alfonso, ti prego. Interruppe Matilde. È inutile discutere con Anna su questo soggetto. Domani anche lei si metterà le scarpe di pezza, andrà per i campi e sai come tornerà? Mangiando un pomodoro a morsi come le contadine. È vero, mamma, ma perché dovrei agire diversamente, se così mi piace vivere e questa è sempre stata la vita dei miei? Sempre fino a ieri. Oggi è diverso, tu studi in città e anche noi siamo stanchi di vivere lontani dal mondo e dalla vita. Bisogna progredire. Qui i giornali arrivano vecchi, fece il padre. Non c'è sarta che sappia cucire un vestito. E anche il denaro che abbiamo può sfruttarsi meglio in ottimi affari. Dille della società. Già, fece il padre e si assestò al suo posto come per cominciare una conferenza. Sto per entrare a far parte di una società milanese con succursali a Roma e a Bari. Una cosa interessante che non ti spiegherò minuziosamente perché sarebbe lungo e non capiresti. Insomma, un lavoro per me, quale si addice al nostro livello di condizione sociale. Abbiamo strette nuove conoscenze e dille, fece rivolto alla moglie. Sì, perché hai paura di dirlo? Insomma, avremmo deciso per l'anno prossimo di stabilirci in città. Anna restò un momento in silenzio, poi disse calma: Non è possibile. E la terra? Ci sono i coloni per la terra. Assumeremo un amministratore, una persona fidata. Ho pensato a Beppe Conti, che ha tenuto per tanti anni l'amministrazione dei De Angelis, e poi si tornerebbe d'estate, 1 o 2 mesi d'estate. Pure tu, forse, che ormai sei abituata in città, disse la madre. Oh, mamma, io smaniavo di laurearmi per tornare. Ma no, Anna, tu non puoi fermarti a questo punto. Non vuoi proseguire ancora? Abbiamo pensato che forse vorresti divenire professoressa, ne abbiamo parlato anche in paese. Potresti avere la libera docenza. Non bado ai denari per la stampa delle pubblicazioni. Anna taceva. Comprendeva adesso la sala da pranzo 900, gli amici di Milano. Mai più avrebbe visto cadere l'autunno sul paese. In treno andava dicendo a Valentina: A ottobre partirò per l'ultima volta. Le pesavano i libri nella valigia e tuttavia voleva prepararsi bene alla tesi per chiudere il capitolo della città, salutare le compagne e tornare ai suoi campi e uscire senza cappello e non più udire lo stridere del tram sulle rotaie, solo ogni tanto, da lontano, il fischio del treno dilaniare il placido silenzio della pianura. Non ho più voglia di studiare, voglio tornare a casa mia. Anche in città sarà casa tua. Non è la stessa cosa. E poi sono stanca di studiare. Perché devo divenire professoressa? Pensavo che vi sareste accontentati della laurea. Non ho bisogno di guadagnare. Dite sempre che siamo molto ricchi. Non vi basta la laurea? Spero di prenderla a pieni voti. Ho fatto tutto per questo. Finora mi sono sempre sottomessa alla vostra volontà. Ma noi lo diciamo per il tuo bene, perché tu sia istruita. Lo sono, babbo. Che vuoi di più? Che ne farò di tutto questo latino, greco, epigrafia, 2 lingue moderne? Che ne faccio? Ma fino a questo punto sarà arrivata anche Valentina, che è di condizione inferiore alla tua. E con questo? Papà, senti, io andrei incontro a delusioni. Vado avanti solo per buona volontà, non per vero ingegno. Mi è costato molto arrivare fin qui. Voi non lo sapete. Non Non ve ne rendete conto? Lo facevo per vedervi contenti, ma ero stanca. Avevo il cuore stretto come un pugno, non pensavo che a questo, tornare. E adesso? Quasi piangeva, il largo volto abbandonato a una smarrita espressione di scoramento. Il babbo la consolò. Ma niente è deciso ancora, non t'affliggere così. Al che la rispose con ferma dolcezza: io non abbandonerò questa casa. Sopraggiunsero entrando rumorosamente dall'aia alcuni amici del babbo con le mogli. Venivano a salutare Anna. Ella li accolse con cordialità, gente che conosceva da bambina. Entravano nella sala con vero rispetto, chiedendo a lei, con sorrisi entusiasti, che cosa pensasse della nuova mobilia. Dicevano, tutti ammirati, sembra proprio di essere in città, eh? E si sedevano sulle nuove sedie molleggianti, sulle poltrone a esse. Fu servito il caffè, poi il vino, e in breve la sala si riempì di fumo. Gli uomini si riunirono attorno al tavolo a giocare. Quattro giocavano e un quinto, seduto dietro le spalle di Don Alfonso, lo consigliava muto, mettendo un dito sulla carta da giocare. Anna presto si congedò perché era stanca. Sappiamo, le disse un'amica di sua madre nel salutarla, che vuoi divenire professoressa. La ragazza si avviò alla sua camera, ma s'arrestò nell'atrio vedendo, oltre le arcate del portico, stendersi i prati illuminati dalla luna, ergersi le cupe ombre degli alberi. E sul cielo, qua e là, piccole nubi s'arricciavano leziosamente. L'aria era di un limpido argento. Anna sentì il cuore palpitarle, affrettato nel petto per la contentezza. La notte dormiva, perfino i grilli tacevano. E fu con passo leggero che Anna uscì fuori sull'aia per bearsi dello spettacolo. Tutto si rivelava luminoso, irreale, paesaggio da favola. Un lampione ardeva sulla strada che menava al paese e sembrava una vigile pupilla. Lontano, oltre il giardino, ai limiti della vigna, si rizzava il canneto pallido, quasi bianco. Un ruscelletto divideva il seminato, un rigagnolo che adesso certo faceva da specchio alla luna. Tutto era intatto, come l'anno passato, come quando ella era bambina. Anna sedette per terra, stringendo a sé le ginocchia, annusando attorno un fresco odore di menta. Sui più alti rami della magnolia strideva un uccellino notturno. Il cane, dopo averla tratto due volte, si era acquetato. Alle sue spalle ella udiva a tratti il ridere delle donne e le esclamazioni dei giocatori. Che cercano più di quanto è qui attorno? Si domandò e si rattristò ricordando quelle fredde e umide pareti del collegio, quelle camere senza sesso, quelle monache senza paese. Tutte insieme adesso le pesavano addosso i libri che aveva studiato, che aveva imparato a memoria, certe volte senza neppure comprendere appieno quelle parole straniere che pronunciava con l'accento legato del suo paese. È l'ultima volta che torno, pensava. Poi rimarrò. Domani sera avrebbe pregato la Tita di cantare sull'aia e con le altre avrebbero fatto coro. Sarebbe andata a trovare le famiglie dei coloni, si sarebbe seduta nell'afa pomeridiana, quando tutto dormiva e solo ansavano le cicale sull'erba umida e fresca del prato che stava all'ombra del canneto. Se fossero andati ad abitare in città, tutte le stanze sarebbero state uguali alla sala da pranzo. Piano traversò l'atrio, salì la scala di legno che cigolò. Cigolava così da quando era bambina. Passò davanti all'uscio della nonna. Chi avrebbe smosso la nonna dalla sua terra? Morta, si sarebbe fatta portare a braccia dai servi fino al cimitero dove stava il marito. Pensò, rasserenata, io rimarrò con lei. Alla prima punta del giorno, quando ancora la casa era gonfia di sonno e un pesante respiro sembrava, filtrando tra le imposte, andare a pesare sul prato, si udiva per la scala di legno il ciabattare sordo della vecchia che scendeva in cucina. Nel corridoio era buio ancora, un buio notturno e ottuso. Dalle finestre il primo giorno entrava come una lama fredda. I passi della nonna soffocavano tra le gonne ampie e scure. Quando era nella cucina, s'arrestava, sospirava e finalmente è giunta. Poi la prima cosa, staccato un mestolo di rame dalla parete, lo riempiva d'acqua, beveva e lo riappendeva al chiodo. L'acqua fredda finiva di svegliarla. Allora toglieva il panno da sopra la gabbia degli uccellini, spiava nel cielo le previsioni del tempo, inutilmente cercava di entrare nella dispensa ove le provviste erano chiuse. Lo sapeva, ma tentava ogni mattina, sperando, chissà, che avessero dimenticato la chiave. Sempre chiuse. Dal finestrino che in alto s'apriva sulla cucina veniva odore di mele, di buon lardo. Nonna Antonia restava lì, avanti, braccando, poi chinava la testa e andava a svegliare i servi. Le donne dormivano mezzo vestite, le braccia buttate di qua e di là. Mute si alzavano, si passavano una mano bagnata sulla faccia e ancora intontite dal sonno prendevano a lavorare. Andavano per la casa con le scope, i secchi d'acqua, spalancavano le finestre. La vecchia s'acquetava, si sedeva in mezzo a loro, beata. Spesso guardava al soffitto verso il piano di sopra, dove il figlio dormiva con la nuora. Presto andava a svegliare la nipote, bussava alla porta e quando la sentiva rispondere scendeva di nuovo le scale, affaratissima. Dava ordini che nessuno eseguiva, come se comandasse a un branco di sordi. Preparava la ciotola per la colazione di Anna, che andava a mangiare sull'aia nel puro silenzio mattutino. Sulla strada che portava al paese, i contadini passavano per andare al lavoro, salutandola alla voce, e spesso nonna Antonia raggiungeva la nipote. Vedi, le diceva, questa è l'unica ora nella quale mi pare di essere ancora ai tempi antichi. Poi alle 10 scende tua madre e io me ne vado pei campi. Quasi 80 doveva averne, eppure, anche sotto la gran calura d'agosto, appena udiva la nuora scendere per le scale, gettava rapide occhiate qua e là e s'allontanava. Temeva che quella le ordinasse di risalire in camera sua e sapeva che, contro la propria volontà, piagnucolando, le avrebbe ubbidito. Oggi andrò a trovare il mezzadro. È indietro col lavoro. I figli sono piccoli, la moglie è giovane e batte la fiacca. S'avviava curva e arcigna, entrava nelle cucine dei coloni, si sedeva a parlare loro da uguale e non da padrona. I contadini sapevano che le sue parole non dovevano essere tenute in nessun conto, ma nonostante questo ella era sempre la padrona vecchia e l'unica che conoscesse la terra come loro. Certe volte li trattava duramente, ma almeno sapeva quel che diceva. Anna si tratteneva a lungo in camera a studiare. La camera sembrava un nido nel folto di due elci che crescevano nel giardino. Vedeva di lassù le terre arse dal sole, il grano turco secco e spoglio, le verdi distese di vite. Studiare era gravoso, per quella sonnolenza che rendeva opache le idee. Era molto caldo. Dalla cucina saliva una voce. Era la serva che cantava piano avanti all'acquaio, messa in allegria dallo zampillo che rimbalzava sul marmo. Anna, alzando la testa dal libro, guardava fuori nel riverbero del sole, fino a vedere macchie d'oro e violacee annuvolarle le pupille. Le dolevano gli occhi, li chiudeva su un mare di latte, latte sanguigno. La divagava il grande ansare delle cicale. Veniva da ovunque, dalle magnolie, dal noce, dalle elci che sfioravano la finestra. Anna non aveva mai visto una cicala e le sembrava che ognuna fosse parte di un gigantesco mantice di organo. Tutto il mattino era luce e ansima di cicale in frenesia. Più lontano si vedeva la rossa casa degli Aponte, i vetri delle finestre chiuse splendevano, abbaglianti, la torretta svettava fra gli alberi, i campi attorno erano uno squallore. Hanno lasciato il figlio quasi in miseria, raccontava papà. Il padre aveva il vizio del gioco, la madre viveva con un altro da tanti anni. Passeggiando, Anna arrivava talvolta fino al recinto del giardino che circondava la casa rossa. Vedeva le aiuole intricate di cattive piante, la terra arsa, ma c'era attorno grande frescura per quel freddo dei giardini abbandonati. Nel pomeriggio Anna scendeva al paese. Il silenzio delle strade la colmava di gioiosa meraviglia. La gente passava dalla parte dell'ombra che era grigia come cenere calda. La zona di sole rimaneva solitaria, accecante. Il suo passo s'alzava tra le case basse e mute. Il paese le appariva pieno di poesia. Dapprima pensò la gioia del ritorno, eppure quando tornava a Roma provava solo una rassegnata ostilità verso le cose. Questo era diverso dagli altri ritorni. Qui amava tutto. Il colore grigiastro degli scalini della chiesa, la patina della fontana, le lastre di pietra sconnesse del corso tra le quali crescevano ciuffi di erbetta, tutto portava l'impronta di una vita fedele e continuata di un tramandarsi di tradizioni e di riti. Sua madre detestava il paese, vi scendeva raramente, guardando di qua e là, disdegnosa. Cittadina era. Suo padre gestiva una trattoria e dovette fuggire per fallimento doloso. Non ne parlava mai. Diceva: mio padre era commerciante, mio padre era nel commercio. Tra poco avrebbe detto: mio padre era nell'industria. Passando per le vie, storceva il naso all'odore che usciva dalle porte. Chiedeva ironica alla figlia: è buono, non trovi? E Anna rispondeva: non so se è buono, forse no, ma mi piace. Qualcuno amava Anna, qualcuno la giudicava un po' troppo placida, altri addirittura sciocca. A tutti sua madre diceva che la figlia faceva tutto ciò, una posa, per farle dispetto. Anna rifuggiva ai pettegolezzi del paese, le riunioni di gente che passava il tempo a chiacchierare. Verso il crepuscolo se ne andava in bicicletta sola. Conosceva certi viottoli e romiti che dividevano i poderi nella sterminata pianura. Incontrava appena qualche contadino con la grande falce sulle spalle che lampeggiava nel sole, qualche bambino che la fissava incantato, un cane seduto sull'orlo di un campo. La bicicletta scivolava sulla polvere del sentiero come sulla cipria e la poca fatica dell'esercizio le dava l'ebrietà di un volo per quel vento che le sfiorava gli orecchi. Dopo aver vagabondato a lungo, abbandonava la bicicletta in un prato e si stendeva lì vicino, la faccia al cielo. La bicicletta abbandonata, riversa sull'erba, dava ad Anna la coscienza del proprio benefico riposo. La ragazza allargava le braccia e si incantava nel nitido azzurro della gran volta che s'apriva sopra di lei. Godeva nel sentirsi nulla, una foglia o un filo d'erba, si sentiva vivere di vita vegetale, come se le scorresse linfa nelle vene invece di sangue. Dopo queste soste, ritornava a casa filando tra gli alberi, i prati, le basse siepi, leggera, leggera. Si dimenticava di essere in bicicletta, le pareva di andare per forza propria. Le alucce ai piedi come mercurio. Talvolta, verso il tramonto, andava a trovare Valentina. La casa dell'amica era lontana, bisognava attraversare il paese. In collegio le due ragazze erano alla pari e invece qui Valentina si trovava umiliata di abitare in quella casa povera con un palmo di orto soltanto. Quando Anna entrava in casa di lei, Valentina le diceva ogni momento: scusa, scusa. Questa sua grande amicizia con la figlia dei Bortone le aveva dato lustro in paese e ella sperava dopo ciò di trovar marito più facilmente. Anna voleva sempre andare a sedersi sul terrazzo. Lì c'erano cose vecchie buttate alla rinfusa per sgomberare, legni infracciditi dalla pioggia e fiori nelle vecchie pentole, ma questo terrazzo s'apriva sulla vallata boscosa e di lì si godeva un panorama pittoresco. C'era quiete, eppure spesso Valentina, interrompendo di parlare, spiava in casa e poi, rassicurata, diceva: niente, niente, dimmi pure.